siamo un popolo di eroi e di grandi inventori, discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è e poca sta pena per me, perciò smettetela di protestare. E non fate rumore quando arriva il direttore, tutti in piedi e battete le mani. Hey! Abbastanza grande, sei già abbastanza forte, ora farò di te un vero uomo. Ti insegnerò a sparare, ti insegnerò l'onore, ti insegnerò ad ammazzare i cattivi. È sempre in fila per tre, marciate tutti con me e ricordatevi i libri di storia. Noi siamo i buoni, perciò abbiamo sempre ragione, andiamo dritti verso la gloria. Minuti, di nuovo in voce dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Mettiti in fila e non ti allarmare. Laura Di Buco, lavoratrice e lavoratori della scuola, parlano di scuola. 06 49 17 50 è il numero di telefono per raggiungere questa radio. E ora di buco chiocciola onda, ora di buco chiocciola ondarossa.info la mail, ma in realtà pensavo al blog, che invece è ora di buco.noblogs.org. Perché il nome del progresso della nazione in fondo puoi sempre dichiarare. Intanto potremmo iniziare da sfatare un mito, perché come dire, i lavoratori e le lavoratrici della scuola lavorano ancora, non sono in ferie e lavorano anche a lungo dopo questi giorni, perché in realtà questi sono i giorni di chiusura. La scuola finisce domani nella regione Lazio, ma poi ci sono gli scrutini, gli esami di maturità, i corsi di recupero, e poi ci sono gli ATA e le ATA che lavorano sempre, a parte i loro 32 giorni di ferie l'anno. 28 perché non ci sono i 4 giorni di festività soppresse da recuperare? No, è che c'è una scansione diversa. Sì. Per i primi 3 anni, dopo il terzo anno si passa a 32 giorni. No, sicuramente è successo anche a me, però io non ero abbastanza consapevole dei giorni di ferie all'epoca, probabilmente. Prima 28, poi 32, sì. Quando diventi vecchio. Sì. Per quanto riguarda gli insegnanti, c'è anche il problema quest'anno dei docenti precari, sì. Che c'è stato tutto il problema sul fatto che non gli volevano più pagare le ferie non godute. E che poi alla fine com'è finita questa storia? È finita che per quest'anno rimane come negli anni passati, cioè i precari docenti che non hanno goduto delle ferie maturate possono farsele pagare. E quindi respingete, mi rivolgo a tutte le precarie e precari docenti, respingete qualsiasi tentativo delle scuole, dei dirigenti, attraverso magari anche le segreterie, di prendere forzatamente delle ferie nei giorni di chiusura della scuola o in altre occasioni. Fatevi pagare le ferie che avete maturato. E comunque possiamo passare subito a un altro argomento a questo punto. Beh sì, diciamo, partiamo dalla cronaca di questi giorni che ci racconta del primo intervento ministeriale della capa, ministro Carrozza, che ha dovuto provvedere a un errore, chiamiamolo così, del suo predecessore Profumo, e ha fatto slittare le date dei test di ammissione alle facoltà chiuse, test nazionali per medicina, architettura, veterinaria e professioni sanitarie in tutta Italia, che Profumo aveva anticipato quest'anno a luglio e che Carrozza invece ha rispostato a settembre. La notizia sembra così quasi neutra, in realtà è frutto di una protesta piuttosto consistente, non tanto degli studenti che sono gli unici, no, che dovevano o potevano lamentarsi di questo fatto, nel senso che sono i ragazzi che affrontano la maturità e che quindi a metà luglio sono appena usciti da questo loro impegno e che avrebbero dovuto sostenere questi test di ammissione subito dopo, diciamo una settimana dopo, ma questo provvedimento del ministro Carrozza è dovuto, noi crediamo, ai risultati che sono arrivati da tutte le facoltà in Italia e quindi dalla preoccupazione dei rettori di queste facoltà, perché si è assistiti a un crollo delle domande di iscrizione a questi test di ammissione. E quindi noi sono stati diffusi i dati le studentesse e gli studenti che hanno intenzione di sostenere questi test di ammissione per il numero chiuso, ripetiamo, di medicina, architettura e veterinaria, e i numeri parlano chiaro. C'è un crollo delle iscrizioni un po' in tutte le facoltà, di tutta Italia, addirittura Tor Vergata segna un meno 60%, e in alcuni casi, facendo i conti, i posti disponibili nelle università per queste facoltà sono superiori alle domande degli studenti. Quindi una caporetto per quanto riguarda, no, le proiezioni degli studi sulle scelte degli studenti diciannovenni d'Italia, e quindi l'unico rimedio è stato quello di far slittare e quindi stabilire nuovamente per settembre questi esami. Sì, anche se una caporetto, come dire, molto lamentata dagli Atenei. Dagli Atenei, sì. Ma in realtà, voglio dire, ministro, eccetera, ne abbiamo parlato anche più volte, c'è stato una cosa abbastanza scandalosa, cioè che si è lavorato, almeno in termini di propaganda, oltre che di sostanza, perché calassero le iscrizioni all'università. Cioè, oltre a praticamente cancellare le borse di studio, aumentare le tasse annuali, distruggere tutta la ricerca, e quindi sostanzialmente sono anche università un po' asfittiche, quelle senza ricerche, anche dal punto di vista della docenza. Ma oltre a tutto questo, c'è stata una campagna abbastanza battente dell'ex ministro Profumo. Ne abbiamo parlato più volte da questi microfoni, in cui sostanzialmente si diceva che fare l'università è una perdita di tempo, con una visione, fra l'altro, cercando di comunare una visione tutta aziendalistica dell'università, per cui l'università serve per avere il buon lavoro, allora fa il tecnico, non fare il liceo, eccetera eccetera, che, insomma, dal punto di vista di un ministro dell'istruzione dell'università è veramente agghiacciante come messaggio. E poi, insomma, la crisi e anche il fatto che poi non si sa che farci con queste lauree, mi sembra che abbiano fatto il resto, oltre al dato tecnico che praticamente studenti e studentesse facevano a malapena in tempo a fine l'esame di maturità, perché Profumo non aveva calcolato bene i tempi. Non aveva calcolato, ma in realtà i tempi li aveva calcolati, tanto che Profumo aveva fissato qualche mese fa, quando il governo era già vacante in realtà, che per l'anno prossimo addirittura queste date saranno anticipate ad aprile. Quindi a metà aprile l'anno prossimo, il 2014, gli studenti che stanno facendo il quinto anno delle superiori dovranno andare via da scuola e andare a sostenere questi test d'ingresso per le facoltà a numero chiuso. Io aggiungerei anche che il 3x2, no, nell'università rientra in questa ottica di cui stavamo dicendo, no? Non ci servono laureati, non perdiamo tempo a studiare, basta che qualcuno più o meno si specializzi piuttosto rapidamente, alziamo i numeri dei laureati, ma non, come dire, senza dietro avere un investimento, no, nell'università, anzi. Sì, fra l'altro è fallita pure quella, nel senso che io mi ricordo all'epoca di Berlinguer, quando si discuteva del 3+2, che poi è il modello che è in vigore adesso, quindi laurea breve in 3 anni e poi specialistica. Una delle cose che si diceva è che sarebbe servito per alzare il numero dei laureati in Italia, perché è molto basso rispetto alla media europea, e è rimasto molto basso, non si è alzato per niente, e il risultato però che hanno ottenuto è che ci sono molti tutti studenti e studentesse che non si iscrivono poi alla specialistica dopo, cioè sono pochissimi i numeri della specialistica che riescono a tenere aperto sostanzialmente, e quindi abbiamo un numero ancora bassissimo, una cosa credo che sia il 12% i laureati nella fascia giovanile, e si dovrebbe invece arrivare al 30 entro il 2020, credo siano questi i dati. E in compenso si è anche distrutto molte delle facoltà universitarie, insomma, non parlo di quelle che non conosco, ma per esempio Lettere ha subito, come dire, un duro colpo. In tutto questo in realtà non c'è la minima riflessione, no? O anche autocritica da parte del ministro, del ministero, e quindi diciamo la ragione che ha spinto il ministro Carrozza a questa decisione in realtà è che se i numeri rimangono questi, altro che numero chiuso, qui bisogna riaprire tutto perché ci sono meno studenti che posti disponibili, e quindi diciamo un ulteriore esempio di pessima gestione, totale incapacità, ripeto, senza il minimo di autocritica, di riflessione che porterebbe a dire ma fermiamoci un attimo, forse stiamo sbagliando tutto. Aggiungo una cosa, che non c'è autocritica neanche per ora su questa farsa del bonus della maturità che continua a rimanere per ora, anche se gli studenti soprattutto stanno facendo pressione, perché come abbiamo detto la scorsa puntata produrrà, come dire, un danno notevole, un confronto tra scuole, tra l'anno precedente, la media della scuola l'anno precedente, con esiti paradossali, che chi prenderà 100 in alcune scuole non prenderà bonus, e chi prende 80 in una qualsiasi scuola, comprese la gran parte di quelle private, otterrà il massimo del bonus per l'accesso a queste facoltà a numero chiuso. Chissà se diciamo entro breve anche in questo caso il ministro correrà ai ripari, però riparo dopo riparo, toppa dopo toppa, in realtà quello che viene fuori è un sistema veramente pessimo. Sì, il tutto perché insomma questa cosa del bonus a scuola l'abbiamo detto l'altra volta, ma lo possiamo ripetere, insomma è un evidente favore alle scuole private, sì, sostanzialmente, dove in genere si passa con la maturità con dei punteggi bassi, e poi insomma lavora sempre su quell'obiettivo di lungo percorso che c'è insomma tra tutti quelli che si sono alternati a Imbere Trastevere, ce l'avevano tutti questo obiettivo, cioè quello della cancellazione del valore legale del titolo di studio, che insomma direi che insomma è il dato politico grave che sta dietro a tutto questo, perché ovviamente dire che la maturità in una scuola conta meno più che in un'altra significa andare verso un'erosione continua di quello che era il valore legale del titolo di studio, e quindi verso una scelta che di nuovo è di fatto classista, che di nuovo mette in condizioni di svantaggio chi parte da zone periferiche, che non vive il centro della città, che non frequenta magari il liceo, eccetera eccetera. Tutto questo spacciato per meritocrazia, no? Per valorizzazione delle capacità, delle competenze, ovviamente, perché non possono dichiararlo così spacciatamente, anche se in realtà molti lo fanno, però nessuno va a leggere quello che c'è scritto, però diciamo la propaganda è quella che tutto ciò serve per valorizzare e premiare il merito, no? I migliori. A proposito di merito, ve lo racconto in diretta radiofonica. Ieri mattina una nota radio pubblica, cioè Radio 3, in una sua nota trasmissione, cioè Tutta la città ne parla, ha parlato di scuola. Io l'ho sentito solo il finale di questa trasmissione. Quello che voglio dire è che per parlare di scuola Radio 3 ha chiamato Ichino e l'Augolini. Allora, Ichino è il fratello del più noto, ma è il redattore del documento di base su cui è stato fatto i test Imbalzi, l'istituto Imbalzi, eccetera. Ne abbiamo parlato, il documento potete trovarlo sul nostro blog. L'Augolini è ex sottosegretaria, era sottosegretaria con Profumo, e preside di una scuola di Comunione e Liberazione di Bologna. E quindi Pasdaran del neoliberismo in salsa cattolica sostanzialmente, e niente, hanno, indovinate di chi hanno parlato? Ma questo era un contraddittorio? Era per dare uno sguardo ampio, ampio sulla scuola. Hanno parlato di merito, da destra a destra, di misurazione dei risultati e del fatto che i docenti non sono preparati. Beh, allora diciamo che forse sarà il caso di farvi vedere quella puntata dei Simpson di cui forse tra un po' parliamo, no? Non so, che avevamo accennato qualche tempo anche fa. Subito, anche direi, subito, direi, puoi introdurla. Possiamo introdurla, nel senso che capita proprio nel nostro ragionamento questa, noi l'abbiamo chiamati, citando altri devoti della misurazione, in realtà il modello che si vuole applicare, direi con successo per ora in Italia, anche se le resistenze sono forti, ma a mio avviso sono ancora molto molto molto inferiori a quelli che in realtà dovrebbero. In America questa idea è passata, forse anche congenita, non so bene, però è da decenni che anche le scuole funzionano in questo modo, come le aziende private, come qualsiasi attività commerciale che come deve garantire un profitto. Dunque i Simpson si sono occupati anche di questo aspetto, cioè noto cartone, insomma, noto, per chi non lo sapesse. Sì, insomma, non è una famiglia i reali di Inghilterra o gli Obama, e i Simpson, i cartoni animati famosi con la famiglia Simpson, Homer il padre di famiglia e tutto il resto, l'allegra famiglia, si è occupato anche di questo, che sembrerebbe un tema, ripeto, marginale, in realtà non lo è, e quindi qualche anno fa è andata in onda la puntata che in italiano è stata tradotta La conquista del test, e racconta di cosa succede nella scuola elementare, il paese in cui abita la famiglia Simpson, e nella scuola elementare, quando all'inizio dell'anno viene comunicato che tutti gli studenti e le studentesse si devono preparare per questo test che permetterà di ottenere dei finanziamenti. E noi sentiamo alcuni pezzi, forse, e i protagonisti sono il preside della facoltà e il sovrintendente. Aspetta, perché sparisci con la voce, non so per quale motivo, ma la sì. Tua voce sparisce, ora non sparisce. Attenzione. Più. Ecco, sì. E il primo brano che sentiamo è il preside della scuola elementare di Springfield che parla. Esatto, nell'aula magna, dove tutti gli studenti e studentesse, riparliamo di una scuola elementare, vengono riuniti per l'inizio dell'anno scolastico. Adesso ci proviamo subito a mandarvela, un attimino soltanto, è già pronto. Ora parteciperà al test di valutazione del vicepresidente. Fa schifo! Valutiamo voi, non lui. Ritiro. Il test fa parte del decreto del governo federale, nessun bambino è lasciato solo. Sarà gratificante fare la punta alle matite e tenere gli occhi sui vostri compiti. E antala di dire boiate, no, Simon. I vostri voti in quel test determineranno quanti soldi riceverà questa schifosa baracca per i prossimi anni. Quindi passeremo ogni momento delle prossime due settimane a ficcare le domande e le risposte in quelle vostre testoline vuote. Timido sta socievo. Questo è l'inizio dell'anno scolastico. Succede che Lisa Simpson, che è la ragazzina molto intelligente e anche secchiona, che, come dire, a cui piace studiare e apprendere e conoscere, si comincia a esaltarsi in vista di questi test, mentre il fratello, il nostro amato Bart, che è uno scapestrato, non così, un debosciato diremmo, in realtà si trova un pochino in difficoltà nel seguire, nel farsi inculcare le domande e anche le risposte standard tutte e due, e quindi mostra di non essere in grado nel giorno e nell'ora esatta di rispondere correttamente. Il rischio è molto alto, l'abbiamo sentito dal sovrintendente, cioè che se la scuola fallisce questi test, i ragazzi falliscono questi test, la scuola non riceverà più i finanziamenti. Succede quindi che mentre Lisa si prepara a sostenere il test, il gruppo dei debosciati, compreso Bart Simpson, viene fraudolentemente spostato, dirottato da scuola, non viene fatto entrare nella scuola il giorno dei test, ma con uno stratagemma viene allontanato dalla scuola e vengono imbarcati questa decina di ragazzi su un bus, dentro il quale viene stipato anche il preside, anche lui forse non è in grado di garantire correttamente, come dire, la somministrazione, lo svolgimento del test. Quindi mentre questo gruppo di ragazzi incapaci si allontana e gira per tutta la città, Lisa si siede insieme a tutti i compagni e per sostenere il test. So che alcuni di voi potrebbero soffrire di ansia da test. Vi do un consiglio utile. Immaginate che ogni domanda sia un pulcino. Se date una risposta sbagliata, il pulcino muore. Ah, silenzio, sarebbero morti in ogni caso. Il test inizierà fra 5, 4, 3. Oh mio Dio, dovevamo cominciare 4 minuti fa. Via, via, via, via, via, via, via, via, via. Ce la puoi fare, Lisa? Non c'è niente in questa stanza a parte te e il test. Concentrati. L'orgoglio sta alla rovina come la presunzione sta al ricaduta, dovuto, fallimento, umiliazione. Ma come? Sono tutti ugualmente validi? Non può essere. Nella vita ogni cosa ha una sola risposta. Una passeggiata. Questa difficoltà a questa domanda mette in crisi la nostra brava ragazza, perché ritiene che sulla risposta multipla non sia una la risposta esatta, ma siano tutte e quattro, un pochino quello che avevamo visto nel nostro esempio della prova in Valsi per la scuola elementare di lettura di italiano. E quindi Lisa affronterà un'ora di tortura sarà completamente bloccata, non riuscirà a rispondere esattamente neanche a una risposta, mentre il gruppo dei derelitti, chiamiamoli così, anzi degli sfigati, compreso il preside, gira per la città e in una serie di peripezie apprenderà molto più di quello che Lisa farà nella sua aula di scuola col test standardizzato. Il preside salverà un ragazzino applicando il principio di conservazione del momento angolare, quindi i ragazzi studieranno fisica semplicemente salvando dalla morte un ragazzino che si era perso nel fiume. La giornata continua con il preside che legge un libro, ragazzi si appassionano alla letteratura, mentre Lisa, fallendo questo test miseramente, ritiene di non essere più una ragazzina capace. E vediamo come finisce la puntata. Gatto, che bello rivedervi tutti! Tutto fatto! E ho ancora 2 minuti per cancellare questi segni sparsi. Beh, è fatta. Uh-huh. Il test è quasi finito, io non ho fatto niente, mi sono rovinata il futuro. Esatto. Oh, pazienza, forse sarà più divertente essere una normale, media, casalinga. Questo test è una presa in giro. Eh? Skinner? Oggi ho ricevuto un grande insegnamento su come imparano veramente i bambini, vedendo il loro preside correre in cima a un container per le spedizioni. Quindi, bambini, mettete giù il foglio delle risposte e mollate quella bella grossa. Sì, lo so che cosa significa. Ho imparato così tanto. Oggi questa è la mia scuola e io butto via quel test. E infine, con effetto immediato, elimino il divieto in questa scuola di ballare. quindi il preside, come dire, rinsavito ordina di abolire questi test e che la scuola torni alla allegra confusione che produce anche, come dire, crescita e consapevolezza. Lisa tornerà a aprire un libro e a leggere Sylvia Plath, e mentre tutti continuano a ballare una canzone che poi molti di voi forse conosceranno. Sì, che adesso forse mandiamo. Anche se questo rimane semplicemente un cartone animato, in realtà le cose giuste le dice tutte, le dice anche nei termini corretti, perché noi sappiamo che nelle scuole negli Stati Uniti viene fatto proprio questo: vengono truccati i dati, vengono allontanati i ragazzi, le ragazzine, anche i piccoli, che non sono in grado di garantire questo tipo di approccio allo studio, quindi l'addestramento ai test. E tanto per citare una delle ultime notizie, che è di meno di qualche settimana fa, il New York Times comunicava che a Chicago 49 scuole pubbliche sono state chiuse dall'ufficio dell'istruzione, appunto, di Chicago, perché non garantivano più i livelli che loro stessi si sono dati, e quindi è stata la chiusura di massa più clamorosa negli Stati Uniti, perché dal 2001 a Chicago sono state chiuse in circa 100 scuole pubbliche per risparmiare, diciamo, circa 500 milioni di dollari. Quindi il risparmio, visto che queste scuole non producevano più, non erano più all'altezza, il risparmio porta alla chiusura delle scuole. In realtà c'è stata una protesta, c'è stata una petizione, raccolta di firme, manifestazioni di decine di migliaia di persone, non è servita a far cambiare idea all'ufficio di Chicago, dell'istruzione di Chicago, cambiando notevolmente la vita di molte persone, perché stiamo parlando anche di scuole, appunto, elementari, e ragazzine e ragazzini che devono continuare ad andare a scuola, in realtà in quel caso hanno l'obbligo di andare non nella scuola più vicina, ma nella scuola più lontana, fare un tratto di strada più lungo, cambiare le proprie abitudini, semplicemente perché quella scuola non funziona più. Non è l'unico caso, diciamo qualche anno fa anche negli Stati Uniti sono state chiuse, a New York, il sindaco Bloomberg, l'amministrazione Bloomberg ha attuato queste chiusure, e le scuole possono redimersi soltanto se dimostrano di, come dire, aderire a questo schema, a questo modello, e a superare questi test. Dietro questa redenzione ci sono dei finanziamenti per aiutare, tra virgolette, le scuole più deboli, ma anche qui noi sappiamo che i docenti, per gli insegnanti, i presidi, per mantenere il proprio posto di lavoro, per mantenere aperta la scuola, ripeto, scuola pubblica, truccano i dati. E quindi ci sono delle denunce di docenti e dirigenti che hanno truccato i dati, e quindi molti americani sono arrabbiati perché questi hanno truccato i dati frodando il fisco americano. Questa è la situazione che vorrebbero, come dire, trasferire qui da noi. E visto che è quasi estate e anche che noi siamo insegnanti, vi diamo anche dei consigli di lettura sull'argomento. Un romanzo molto bello, I Prof, si intitola, e l'autore è Frank McCourt, in Italia insomma si trova, edito a Delphi, e viene fuori esattamente in un bel romanzo ben scritto e divertente, quel tipo di scuola che vogliono costruire anche in questo paese sul modello americano, attraverso i test imbalzi, per dire insomma la cosa più evidente. E l'altro, direi, gli studenti di storia, di Alan Bennett, che è un bellissimo racconto che poi diventa rappresentazione teatrale, che ci descrive cosa succede in Inghilterra, però diciamo il modello è molto, diciamo il modello è questo, la storia resa sexy affinché gli studenti possano entrare all'università con un tema originale di storia, e quindi si può scrivere qualsiasi cosa. Un testo veramente molto interessante che, visto a teatro, come dire, colpisce molto. Bene, adesso cambiamo argomento, riaggiorniamo un po' la situazione su quello che era gli inidonei e gli ATA. Parliamo di ATA e in questo specifico di inidonei, poi affronteremo altri argomenti. Comunque, ricordiamo che è ancora in stand-by la situazione di circa 3.500 persone tra docenti cosiddetti inidonei, cioè che non svolgono più attività frontale in classe, ma sono dislocati nelle biblioteche, nei laboratori, in altre attività comunque altamente importanti, rilevanti all'interno della scuola. Più parliamo di circa un 500 insegnanti tecnico-pratici, perché sono state abrogate delle classi di concorso, e queste persone anche dovrebbero, queste 3.500 persone, transitare nei posti degli assistenti amministrativi, quindi togliendo oltretutto i posti a personale precario e obbligando dei docenti a svolgere mansioni per cui non sono preparate, non sono formate e non vogliono, praticamente. E dunque c'era una buona notizia che riguardava un disegno di legge, il 316, presentato da alcuni senatori e sottoscritto da tutti i partiti, in cui si chiedeva di abrogare proprio quell'articolo, il 14, in alcuni commi che con la spending review avevano cancellato l'orario a 24 ore dei docenti, ma avevano mantenuto appunto il transito di queste 3.500 persone nei posti di assistente amministrativo. Questo disegno di legge, poi il Ministero ha detto che non dando motivazioni chiare non poteva passare, e noi ora sentiremo una corrispondenza, perché ieri c'è stato un convegno CESP dei COBAS anche su queste tematiche, e ora sentiremo dalla voce di un docente inidoneo, appunto, che è stato in prima fila fin dallo scorso anno, perché sono circa 2 anni che i docenti inidonei e gli ATA si battono appunto per cambiare questo stato di cose. Sentiamo ora, pronto? Pronto, sì, sono Titti, sono in linea e ho sentito quello che hai detto. Ciao. Le ultime cose che hai detto, ciao. Allora. Sì, in effetti noi da luglio del 2011 che siamo sotto torchio, e però insomma non ci siamo mai arresi, anche se aveva cominciato Brunetta nel 2011, appunto a luglio, con la prima finanziaria del 2011, a invitarci ad andare a ricoprire i posti ATA, naturalmente sottraendoli a quei precari che erano storici, erano 10, 11, 12 anni, lavoravano e vedevano ormai in arrivo la loro stabilizzazione. E noi sin dal 2011, certo sempre con i COBAS che ci hanno sostenuto in questa battaglia, abbiamo cominciato a dire che no, questa cosa non era fattibile, non era possibile. E ci siamo battuti, abbiamo fatto convegni, abbiamo fatto sit-in, siamo stati ricevuti dal MIUR, appunto dicendo che noi questa cosa non l'avremmo accettata. Poi nel 2012 si è abbattuta la spending review, che per racimolare 100 milioni ha pensato bene di di obbligare gli insegnanti idonei ad altri compiti, così come ci chiamiamo noi, ovvero quelli che tutti volgarmente conoscono come idonei. E i colleghi ITP di due classi, la C555 e C999, a transitare nei ruoli ATA, quindi completamente negando ai colleghi precari dell'amministrazione di poter ricoprire in pianta stabile il loro ruolo. E quindi questo ci ha praticamente messi ancora più tutti insieme, perché questa è stata la grossa svolta, quella di unire due categorie che in realtà qualcuno aveva anche pensato che fossero l'una con armate l'uno contro l'altro, invece no, gli ATA precari insieme ai docenti di idonei ITP sono diventati una grande forza che è riuscita a portare all'attenzione dei senatori e dei deputati la grande vergogna che vogliono applicare, mettendo appunto, mandando gli insegnanti idonei ad altri compiti a ricoprire un ruolo che non gli compete. E quindi questa è stata, diciamo, la grossa nostra forza, questa unità e questa nostra caparbietà a non arrenderci e a farci sentire in continuazione, ecco. Ma anche perché le tre proposte di legge che sono state fatte dal PD, che in prima battuta è sempre, insomma, diciamo, che ha colto subito questo errore che aveva fatto, perché facendo passare la spending review chiaramente faceva passare anche la nostra condanna, no? E quindi sia il PD l'ha fatta subito come proposta di legge, poi sono arrivate anche quelle di SEL e alla Camera, e anche quella del Movimento 5 Stelle hanno fatto le loro proposte. E in effetti c'era questo problema proprio della non copertura economica, anche se poi ieri siamo stati raggiunti dalla comunicazione proprio della senatrice Puglisi, che invece stanno facendo di tutto proprio alla commissione bilancio affinché non ci sia nessuna contrarietà non venga rilevata nessuna contrarietà all'approvazione di questa legge. Scusami, sì, Titti, ma voi avete anche fatto delle proposte proprio dove racimolare questi fondi, oltretutto, ah, io mi ricordo, no? Quindi avevamo proposto anche da sempre, ma da già sempre, dall'anno scorso, da quando Monti aveva detto: io devo tagliare, voi trovatemi i soldi, indicatemi quali sono i posti dove posso andarli a tagliare e io sposto l'economia. E noi infatti avevamo proposto proprio le funzioni strumentali, i soldi delle funzioni strumentali, perché diciamocelo, molti di noi assolvono già con il loro lavoro a quello che è l'arricchimento dell'offerta formativa. Penso a tutte le biblioteche scolastiche che sono tenute dai docenti idonei. Quando la biblioteca scolastica è tenuta da un docente che ci sta in pianta stabile 36 ore a settimana, perché non ci dimentichiamo che i docenti idonei, certo, non solo perdono immediatamente l'orario di servizio a 24 a 18 ore, diventa subito a 36 ore, e non hanno più le festività così con le chiusure scolastiche. Dal punto di vista, diciamo, dell'orario di lavoro, vengono immediatamente equiparati agli amministrativi. Insomma, quindi voglio dire, uno si ammala e quindi viene premiato, no? Gli viene raddoppiato l'orario di lavoro, per dire. Quindi avere una biblioteca che possa essere utilizzata per tutta la settimana, insomma, credo che sia un grande vantaggio, o ai laboratori didattici. Certo, penso poi a un laboratorio di scienze di, diciamo, che è una grossa risorsa per la mia scuola. Ecco, quindi voglio dire, noi comunque assorbiamo quelli che sono sicuramente gli oneri che esistono nella scuola, che vengono poi assolti dalle funzioni strumentali. Quindi noi comunque siamo un arricchimento dell'offerta formativa. E certo, noi lì avevamo senza chiesto togliere di poi i soldi. Senza scusami Titti, volevo Titti, scusa, e noi volevo... sappiamo che nel bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione supera i 140 milioni diciamo il budget dell'offerta formativa, per l'arricchimento dell'offerta formativa. E sì, nelle funzioni strumentali. Però questa cosa non c'era stata data per possibile, cosa che invece abbiamo visto alla fine non essere così, perché quando poi il ministro Profumo ha proposto 24 ore per tutti i docenti delle medie e delle superiori, una certa cifra per poter lasciare i docenti delle medie e delle superiori a 18 ore è stata recuperata proprio da questo budget. Quindi dipende, no? Dipende un po' da chi le propone queste, diciamo, da chi propone questa possibilità di andare ad attingere. Titti, ma pronto? Poi pronto, ci siamo. Mi sento mi senti? Dimmi. Pronto. Sì, io volevo, volevo appunto anche ricordare che il transito di voi docenti nei doni sui posti degli amministrativi, cioè, comporta oltretutto la fuoriuscita di precari che, come ricordavi tu, sono da anni, quindi un modo di tagliare, eliminando, come dire, alla radice il problema, eliminare posti di lavoro. Questo accanimento contro 3.500 unità scarse che rappresentiamo noi docenti idonei insieme agli ITP. Il disegno è molto più ampio, no? Sì, il disegno è più ampio, esatto. Eliminare una norma che in progress avrebbe garantito, visto che adesso l'età pensionabile si sposta verso i 68-69 anni, ai docenti che arrivati a 60 anni, 70 anni, si capisce benissimo che è difficile esercitare questo lavoro con dei bambini piccoli, no? Penso a tutti gli insegnanti della scuola dell'infanzia. Come si fa a prendere un bambino in braccio, insomma, quando c'hai più di 60 anni? Certo, infatti, perché se poi bloccano allora, l'uscita, i pensionamenti sarebbero arrivati a pioggia, no? Mm-hmm. E quindi secondo me questa è stata un'altra delle idee illuminanti che hanno avuto, per dire: intanto premoniamoci, pariamoci, così quando la gente arriverà a 63-64 anni e non ce la farà più a svolgere questo lavoro, perché i successivi 5-6 che sono quelli che li separano dalla pensione, eliminiamo la possibilità, no, di poter svolgere in attività diverse gli ultimi anni prima della pensione, ecco. Io penso che ci sia anche quello, e soprattutto che non ci sia voglia di stabilizzare chi per tanti anni è stato utilizzato, non vorrei usare la parola sfruttato, ma più o meno. Senti, Titti, tutti precari, no? Ma quindi adesso com'è la situazione? Adesso, dopo appunto le mobilitazioni, sembra che sia sbloccata, che quindi questo, sì, questo disegno di legge andrà in porto e bloccherà questa disposizione della verranno abrogati questi commi, questo articolo? Quali sono le ultime notizie? Che abbiamo avuto ieri stessa la Puglisi, intanto ieri la ministra Carrozza è intervenuta in una chat apposita in cui si potevano fare delle domande sulla scuola. Io ne ho digitata una dicendo che cosa aveva intenzione di fare lei, e lei ci ha risposto che era un problema importante, se ne occuperà, e quindi avrebbe avuto una risoluzione sicura. E poi devo dire che abbiamo incontrato intanto ieri la Puglisi, appunto la senatrice che ha presentato per prima una soluzione che prevedeva l'abrogazione della norma dell'articolo dei commi 13, 14 e 15, sì, dell'articolo 14 della spending review. Appunto ci ha telefonato per dire che loro stavano proprio dandosi da fare per trovare tutte le coperture sicure e tranquille, onde non avere ostacoli, perché insomma il governo aveva bisogno di sicurezza rispetto alla copertura. Perfetto, e altrimenti continuiamo a scendere in piazza, ovviamente. No, io se posso dirla mia, continuiamo a scendere in piazza. Comunque, perché la Puglisi ne ha dette tante, certo, in questi anni, come tutto il PD. Anche il Movimento 5 Stelle, che ieri ci ha raggiunti lì in piazza. Buona la prima, buona la seconda. Sono venuti, ma se noi non ci siamo mai, noi non mi sono portato il conto, siamo usciti già 14 volte, quindi in 2 anni credo che nessun altro abbia fatto una cosa del genere. Abbiamo, se infatti ci dicono tutti che saremmo pure idonei all'insegnamento, ma non certo idonei alla lotta, anzi siamo idoneissimi alla lotta. Più che altro abbiamo dimostrato che noi non ci arrendiamo né ci accontentiamo. E allora Titti, perché qui le lotte poi bagliate ce ne sono parecchie da fare. Io non vi sento più, Io non vi sento più. Senti, Titti. Io volevo anche parlare, ti dovremmo lasciare, perché appunto volevamo aprire un attimo il discorso su altre due questioni ATA importanti che riguardano altri spunti, e magari ci risentiamo una prossima volta. Certo. No, io appunto volevo dirvi che abbiamo avuto anche la rassicurazione, perché è scesa ad incontrarci anche il portavoce della Boldrini, che ci ha riferito che appunto la Presidente della Camera è informata. Ma noi sinceramente sono tutti dati che non sono poi così interessanti, nel senso che quello che interessa è la vostra lotta e la vostra presenza, certo, e quanto voi siete capaci, perché la Boldrini, il portavoce della Presidente della Camera, capirai. Noi abbiamo interloquito sempre e non ci siamo mai abbiamo capito, ma noi abbiamo detto la nostra. Cioè che io ti sento pochissimo, ti sento col vai e vieni, capito? Non è che capisco molto quello che dici. Allora guarda, noi lotteremo sempre fino a che non avremo l'abrogazione. Esatto, in piazza, ecco, ci siamo, l'abbiamo quindi già detto. Continuiamo, e a luglio, le mobilitazioni. Non è ancora chiara, saremo lì. Perfetto. Ci siamo resi l'anno scorso a luglio-agosto, non intendiamo farlo quest'anno. D'accordo. Grazie. Allora ci vediamo grazie in piazza. Ciao. Ciao, okay, ciao, grazie. Ciao. Viene gennaio silenzioso e lieve, un fiume addormentato fra le cui rive giace come neve il mio corpo malato, il mio corpo malato. Sono distese lungo la pianura, bianche file di campi, son come amanti dopo l'avventura, neri alberi stanchi, neri alberi stanchi. Viene febbraio, il mondo è a capochino, ma nei gomiti e in piazza lascia i dolori vesti d'Arlecchino, il carnevale impazza, il carnevale impazza. L'inverno è lungo ancora, ma nel cuore appare la speranza, nei primi giorni di malato sole, la primavera danza, la primavera danza. Insomma, la canzone 12 mesi di Guccini ci piaceva molto, ma non ce la facciamo, ci stiamo infervorando qui, quindi dobbiamo in qualche modo dire due cose, come dire, di commento alla corrispondenza che abbiamo fatto, cioè quest'idea che si deve dire al governo dove levare i soldi perché non si levino a un altro gruppo che in quel momento presenta la propria istanza è agghiacciante, e quello che sta facendo questo governo, il governo precedente ancora, è che stanno facendo tagli, e all'interno di quei tagli noi ci dovremmo industriare a dire taglia a lui invece tagliare a me quei 50 centesimi, cioè è una visione con cui non andiamo a nessuna parte. Non solo, ma poi anche questa idea che la spending review sia passata così senza capire bene quello che si stava approvando è un, oltre che, se fosse vera, sarebbe agghiacciante allo stesso modo, in realtà è falsa, perché loro sanno esattamente quello che c'era scritto. Le proteste, le mobilitazioni hanno fatto in modo che alcune cose fossero rimosse, tra cui, diciamo, quella più eclatante era le 24 ore, ma questa cosa delle idonee c'era e è stata lasciata, è stata votata da tutti, compreso il PD, compreso Puglisi tutto questo, quindi adesso che le lacrime di coccodrillo non crede nessuno, e continuiamo a lottare perché solo questo può portare almeno a sbugiardarli magari. No, poi per dire i tagli, allora sentite questa com'è, qual è l'assurdità. Allora, sia sempre parliamo di ATA, allora sia i collaboratori scolastici che gli amministrativi hanno fatto dei concorsi, chiamiamoli così, per aver riconosciute alcune mansioni superiori di complessità o di fatica, che prima venivano praticamente, si chiamavano incarichi specifici, e quindi venivano presi dal fondo di istituto, però dati i soldi, finita la questione, non erano, come dire, scatti che poi davano adito alla pensione a delle... Articolo 2, articolo 7 sono inquadrati così queste posizioni economiche. Stiamo parlando di spiccioli, 50 euro lordi, 35 euro lordi a mese, insomma, in più sulla busta paga. Che cosa è successo? Che allora questo è frutto di un accordo MIUR sindacati scuola, un accordo del 12 maggio 2011. Il MEF, il Dipartimento della Funzione Pubblica, quindi quando queste persone già stanno svolgendo queste mansioni superiori percependo questi soldi, quindi per 13 mensilità, il MEF risponde che no, deve recuperare queste somme già percepite. Perché? Perché quell'accordo che è stato fatto nel 2011 praticamente non era conforme al quadro normativo che in quel momento vigeva, e si riferiscono in particolar modo all'articolo 9 della legge cosiddetta della manovra correttiva Tremonti, del decreto legge del 78-2010, poi convertito in legge 122 del 2010. Quindi per loro quel riconoscimento di mansioni superiori, questi incentivi, sono solo un riconoscimento a livello giuridico, e quindi questi stanno dicendo che loro recupereranno quelle somme in modo forzoso, cioè mettendo praticamente, prelevandoli dagli stipendi o trattenendoli. Ora sì, anche qui tutti i sindacati sono stupiti, costernati, ma non si può fare, qui e lì vedremo come andrà a finire, perché al momento comunque questo è il parere espresso, e vedremo chi si muoverà e come, perché qui appunto stiamo parlando, ripeto, in totale lorde di 600 euro annui, all'anno. 500 euro, quindi sono cifre che veramente, insomma, incidono. Sì, che ci è costato anche e allora abbiamo dovuto, e questo sì che ci è costato anche psicologicamente, chiedere un da una lacrima sul viso ho capito molte cose. Credo che stesse per dire sacrificio, come avete capito. Le voci erano del vecchio governo, ma insomma la sostanza è la stessa. Nero. Allora, Fornero l'ha fatta Fornero. Un'ultima cosa volevo dire riguardo sempre la faccenda degli inidonei, cioè questo blocco che ormai è da più di un anno che va avanti e sembra si reiteri anche il prossimo anno, speriamo di no, perché ha causato poi su quei posti cosiddetti vacanti in organico di diritto e di fatto, ha causato il congelamento. Il congelamento che cosa ha comportato? Ossia, mentre ogni anno anche il personale amministrativo precario, stiamo parlando di circa un 40.000 persone solo qui in Lazio e provincia, Roma e provincia, veniva appunto convocato, c'è cioè una graduatoria permanente provinciale in cui si accede dopo anni di faticoso insomma lavoro e di punteggi assimilati, sommati. Queste graduatorie provinciali quest'anno non sono per niente uscite, quindi si è provveduto a nominare sui posti resisi disponibili, ma nessuno, non c'è stata mai la pubblicazione da parte dell'USR Lazio, dell'Ufficio regionale, Scolastico Regionale del Lazio, di quanto era il numero di posti appunto disponibili per le supplenze anche annuali, perché ricordo che dalla graduatoria provinciale è come dire una graduatoria privilegiata, si fa per dire, nel senso che si è precari però si lavora tutto l'anno, quindi c'era garantito dal 1 di settembre al 31 agosto un incarico annuale o al limite fino al 30 giugno. Se non che quest'anno, non essendo stati congelati quei posti né si è avuta una nessun tipo di circolare in merito, si sono fatte delle nomine che vengono chiamate sul posto sull'avente diritto, ex articolo 41, cioè posti che dovrebbero essere assegnati appunto a questi docenti inidonei che transitano, ma che finché non si sblocca vengono dati sull'avente diritto, ossia non si sa fino a quando durano. E lì si è proceduto da graduatoria di istituto, quindi creando delle irregolarità, delle disparità, delle veramente una confusione, per non parlare proprio di grosse truffe, perché insomma si sono scoperte anche i singoli istituti che hanno attinto da loro graduatorie personalissime, perché scavalcando a pie pari di centinaia di poste quelle che dovevano essere le persone che avevano diritto ad avere la supplenza, sono scattate tantissime ricorsi chiamati richieste di conciliazione, c'è stato anche il MIUR che si è espresso dicendo di agevolare queste conciliazioni di coloro che avevano diritto a ricoprire quel posto ma che invece per tutto questo loro caos che hanno creato non l'hanno avuto. Beh, a tutt'oggi richieste presentate o da singoli avvocati o da sindacati di base, insomma, fatto sta che il MIUR, ancora il MIUR, l'USR, l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, si rifiuta di dare un documento scritto dove si evinca il numero reale dei posti disponibili e quindi coloro che hanno diritto ad avere la conciliazione. Si rifiuta, non vengono ricevuti i sindacati o le persone delegate a fare queste conciliazioni, si rifiutano di riceverli, lasciano avanti un funzionario che però non ha potere decisionale, che dice, dà dei numeri teorici, cioè dice no, i numeri sono questi, e uno dovrebbe basarsi sul così la semplice parola di una di un funzionario d'ufficio e su questo rassegnarsi e dire vabbè, allora se sono solo questi i numeri, cioè non ci forniscono prove scritte, tant'è che sono partiti ora degli esposti alla Procura della Repubblica, perché questo. E su questo e altro vi diamo l'appuntamento a martedì prossimo, sempre alle 16 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questo appunto era l'ora di buco, oradibuco.noblogs.org per riascoltare la puntata e per leggere molte cose. I microfoni parlano e passano al martedì autogestito da Femministe e Lesbiche, da ora alle 23. Un giorno mi insegnavi che a questo mondo noi